Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. Poi è stato un attimo di silenzio, poi tutti e due sono venuti su per le scale. Ho riaperto il fuoco, un altro colpo e ho colpito. Io non sapevo averlo colpito, l'ho visto dopo che l'ho colpito. Ho sentito la macchina, hanno acceso la macchina, una 500 che avevo in cantina, solo che uno di questi ovviamente l'aveva colpito. Perciò, Teresa, ti prego, scherzare col fucile. Ho difeso la mia famiglia, sono convinto di averlo fatto, lo rifarei 100 volte, perché la mia famiglia è sacra e in casa mia non devono fare quel che ho fatto. Dammi parare, Teresa. Potrei ammazzare una persona, non è bello, è una cosa che non auguro a nessuno perché è devastante, però ho difeso la mia famiglia. Io gli ho chiesto praticamente questa mattina, che era più tranquilla appena si è svegliato, gli ho detto: ma ti ha detto qualcosa il signore che ti ha accompagnato? Lui ha detto: guarda, mi ha detto che se il papà non gli dava i soldi ti avrebbe tagliato tutte le dita. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. E allora, parole di Rodolfo Corazzo. Adesso tutta l'Italia conosce Rodolfo Corazzo e fa il tifo, si schiera. Ha fatto bene, ha fatto male, ha fatto così così, ha fatto così cos'ha. E noi siamo un popolo di tifosi. Rodolfo Corazzo è colui che ha ucciso un rapinatore ergastolano, evaso due volte, albanese, che è penetrato in casa sua insieme ad altri due rapinatori e si è dato un conflitto a fuoco e appunto Corazzo ha ucciso questo rapinatore. Riparte il circo dei commenti, riparte il circo su legittima difesa, non legittima difesa. Mamma mia, mamma mia. Fastidisce quasi più del raffreddore che ho. L'ho incontrata per la via, disse: vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Allora, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, WhatsApp anche, ormai lo avete capito, lo sapete. Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Perciò, sì, ce l'abbiamo anche noi WhatsApp. Allora, questo è 24 mattino, sono le 6:32 minuti e c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il nostro Peter Bescapè in regia. Allora, eccoci qui, cari amici, si è arrivati al cuore della vicenda, quello che attendevo. Io lo sapevo che sarebbe uscito qualcosa, lo sapevo. Ieri ero, vi devo raccontare questa cosa, apriamo il Parlamento, dai. Ieri ero a presentare il libro Avarizia di Emiliano Fittipaldi, uno dei due libri sul Vaticano, ed ero lì a dire: dai Emiliano, dimmi che... E lui non dico niente, ma io sapevo che arrivavamo a questo. Lo sapevo, attendevo quello che è la prima pagina del giorno. Monsignore a luci rosse. Eccolo qui, Monsignor Balda. Tutti gli sms spiattellati tra Monsignor Balda, uno che è tra gli imputati del processo VatiLeaks, avrebbe passato i documenti, e gli sms con Francesca Sciauchi, anche lei indagata, imputata in questo processo. Tra poco ve li leggo, pubblicati oggi dal Giorno in prima pagina. Prima fatemi salutare chi intanto torna da noi il direttore di affari italiani.it, eccolo qui, Angelo Maria Perrino. Eccoci, il nostro angelo, il nostro angelo Maria Perrino. Come stai? Ciao, tutto bene? Sì, assolutamente sì. Poi iniziare la giornata col Parlamento fa sempre piacere. Sei pronto agli SMS? Prontissimo, non li conosco, quindi muoio dalla voglia di sentire dalla tua bocca che cavolo è successo. Anzi, sono WhatsApp, più che SMS, WhatsApp. Ecco. Intanto lasciami salutare anche il grandissimo, Vincino. Vincenzo, come stai? Eccoci. Benissimo. Guarda, allora, il più tenero degli SMS era questo di Francesca Sciauchi. E sei teso? E tromba che ti passa? Tromba un po'. Mamma mia, che passa tutto. I messaggi. Chi lo diceva questo? Chi lo diceva? La Francesca Sciauchi che ha sponsorizzato moltissimo la Silvana, cioè sua cugina. Ti presento mia cugina di Sansosti, così salviamo anche il patrimonio genetico, gli scrive in un SMS. A 36 anni è morbidissima. Morvincino, oltre che una esperta di teologia, sembra un'esperta di musica, visto che allude alle trombe, o no? Esatto, più o meno. Tu, Vincino, hai mai conosciuto la Silvana? Povera Silvana. Poi a un certo punto, non contenta, Francesca Sciauchi manda sempre un SMS a Monsignor Balda e dice: allora, la Silvana vuole trombare? Martedì viene a casa tua, va bene? E c'è Monsignor Balda che... No, ma come no? Ma perché... È brutta, risponde Monsignor Balda. È brutta la Silvana, mamma mia. Vabbè, questo è il tenore. E diceva una volta Alessandro: lei suona il piano e lui la tromba. È chiaro. E vabbè, che dobbiamo fare? Questo è il tenore dei messaggi. Sei sconvolto, Vincenzo? No, assolutamente. No. Andremo a comprare il giorno, che qua non è, cioè, un giornale molto milanese, ma assolutamente. Penso anche alla nazione. Meglio di Dago Spia, meglio di tutto, come dire, Che devi fare? I messaggi hot, messaggi, frasi da B-movie di Francesca Sciauchi. Amo, ho preparato tutto stamattina, meno che a questo. Il laico, Vincino, no. Stupendo, mi hai sorpreso. Vabbè, adesso non esagerare. Tu, Perrino, ti attendevi che oltre Tevere... Insomma. Ma io, quando succedono questi episodi che coinvolgono i preti, rimango sempre un po' sconcertato. Devo confessarti puerile... ingenuità. È una sorta di pregiudizio favorevole verso chi decide di dedicare la propria vita a Dio. E quando invece scopro che sono dei peccatori, ma anche in questo modo sgraziato, è un po' porcellone. Io resto sgomento, perché ho studiato dai padri Scolopi e sono un ex agostino. Però, ripeto, saranno pregiudizi di una persona... oramai coi capelli bianchi. Ma no, ma per carità, anch'io ho fatto i salesiani, non ho niente da dire, anzi, massimo rispetto. Sono persone serie che hanno scelto una vita di sacrificio, sono certo che sia così per la stragrande maggioranza, però insomma fa un po' scalpore. Siamo arrivati al cuore della vicenda. Sarei più indulgente, dette da un cardinale, peggio. Lo trovo sconvolgente. Vabbè, guarda, io assolutamente io mi aspetto la qualsiasi. Quante vignette, cioè, puoi fare su questo? Ma io poi sono un amante della chiesa, quella del Cinquecento, no? Di Papa Borgia. Io mi sono visto tutte le puntate 3 volte, no? Di quella cosa di Papa Borgia online. Bellissimo, guarda. Quindi non sei stupito per nulla? Assolutamente no, guarda. Ma poi, come dire, l'uomo, la carne è carne, l'uomo, la carne, le donne, carne, le cose. La carne è carne. Il meraviglioso, quello prete di Montecastino, leggo cose stupende. Allora, devo salutare da Latina, devo salutare Enrico da Pesaro, Luca invece da Latina. È partita questa cosa che ci dicono da dove ci ascoltano, e va bene. E allora, c'è un ascoltatore, Sandro da Basilea, mi risulta, il numero è svizzero, però insomma, Basilea. C'è questo dibattito sulla legittima difesa, non lo so, volete farlo anche voi? Lo smarchiamo questo dibattito, caro Perrino, cosa ha fatto? Tu ha fatto bene, l'ha ammazzato, ci sono quelli, c'è il tifo su queste vicende, no? Sì, come dicevi, è un tema ricorrente che accompagna questi fatti di cronaca, si sa quello che pensano, chi è d'accordo, chi è contrario, tra qualche giorno non ne parleremo più. Dunque, se vuoi ne parliamo, però mi sembra molto scontato. Ma non lo so. Qualche adeguamento delle leggi, perché in effetti la pubblica opinione rimane sconcertata quando davanti a fatti del genere o chi si è difeso viene arrestato o i ladri che hanno ammazzato dopo un po' li vediamo. Ma no, ma infatti ho sparato per salvare i miei, direi che va bene così, ha detto questo, ha detto non sono neanche contento ovviamente di aver ammazzato una persona. D'altra parte coloro che pontificano, si dice, vorremmo vederli alle prese con episodi analoghi, probabilmente il loro garantismo si affievolirebbe. Infatti è così. Caro Vincino, tu che vivi a Roma... Sì. Tu che vivi a Roma, com'è? Tutto tranquillo? Sai che il prefetto Tronca ha abolito i centurioni e ha vietato i centurioni che sono troppo aggressivi. Fino a ieri c'erano. Lo so, dagli tempo un attimo. Ma sono gli unici che vigilano e che mi garantiscono rispetto al Colosseo, no? Sono le guardie del Colosseo. Ma che vigilano? Ma certamente, i centurioni sono le guardie del Colosseo, ma da 2000 anni messi là, come dire, contro gli attentati, contro tutto ci sono loro, questi baldi centurioni, assolutamente, mi danno un senso di sicurezza, io li vedo là e dico, cavolo, il Colosseo è da 2000 anni, c'ha questa guardia qua così e mi sento più tranquillo. Il Colosseo è difeso. Il Colosseo è difeso. Adesso a parte gli scherzi, ma come si vive a Roma questa tensione? Devo dire, è stata un poco più deserta, no? Traffico diminuito. Traffico leggero, ma questo diminuito va bene anche come cosa, non più o meno. Gay Street è tranquilla là abbastanza, non meno. Perché gente, Vincino, però, Vincino vive a Gay Street, dobbiamo dirlo. No, è vero, cioè, lo diciamo. Vivi a Gay Street. Praticamente si chiamava via San Giovanni Laterano, poi dopo da 10-15 anni si chiama così, ma dire, per me cambiano i nomi, ma la strada rimane più o meno lo stesso, lo stradone di San Giovanni. Quindi ecco, si vive abbastanza tranquilli, non è che... Finora sì, eccoci qua. No, perché effettivamente questa psicosi dovete finirla, cari ascoltatori, cioè io anch'io sono andato ieri in metropolitana, le metropolitane sono abbastanza deserte, anche proprio lì alla Feltrinelli dove c'era la presentazione, la direttrice della Feltrinelli ha detto abbiamo siccome siamo a due passi dalla Scala, da quando c'è stato questo allarme, la Scala nel mirino, perché Perrino si pensava che fosse che cosa nel mirino, non so, il bar di periferia, no? La Scala nel mirino, cioè non c'è più nessuno, non viene più nessuno. Intuizione dei nostri soliti servizi segreti abbastanza banali, sì per la verità lì anche dall'America ci hanno detto il Duomo e la Scala, il Colosseo nel mirino, che dobbiamo fare, Perrino? Dobbiamo blindarci casa. E li paghiamo pure. Sì, questa immagine sì. Ma che dovremmo fare? Cioè, come dovremmo vivere? Anche oggi sui giornali c'è questo, nell'articolo di Massimo Franco, sentite cosa dice a un certo punto Massimo Franco. Ormai è chiaro, non ce l'ho sotto mano, comunque il concetto è questo, dice... Ormai anche per i nostri servizi non è questione, per l'Italia è solo questione di se, come... e quando? Se, come e quando? Bei messaggi tranquillizzanti, Perrino, no? Sì, mi risulta che a Roma stiano annullando le prenotazioni turistiche e quindi avanti di questo passo davvero rischiamo anche di fermare la ripresa che sembrava balenare sullo sfondo. Quindi... insomma, dovremmo davvero ritornare alla normalità, c'è un grande rischio di contagio, di psicosi e di allarme ingiustificato. Tra l'altro il prefetto di Milano, facente funzione, che tra le tante contraddizioni del sistema, Milano non riesce ad avere un prefetto dopo che Tronca è andato a Roma. Sì. Ci invitava noi giornalisti a essere più prudenti nel coprire queste post parigine, perché pare che quando scriviamo suscitiamo allarmi che impegnano poi le forze dell'ordine. È un dibattito che ti lancio lì, non so è giusto che ma noi in Belgio, in Belgio ma in Belgio ancora hanno detto, per esempio, questa notizia: ci sarebbero 10 kamikaze a Bruxelles pronti a esplodere. Ma, cioè, però poi la polizia ha detto ai giornali: no, la notizia non diffondetela con così tanta enfasi, perché no, è vicino, sono 10, però insomma, non dite. Per andare da Roma, no, però il ruolo dei giornali non è da poco, è il ruolo dei mezzi di informazione. Esatto, esatto. Vincino, che dici? Secondo me leggono pochissimo i nostri giornali, però, assolutamente. Io mi reputo tranquillo. Secondo me il Foglio lo leggono pochissimo quelli là, però, come dire, non. Vabbè. Però insomma, per dire, vai da Roma a Bruxelles con 1,50 euro oggi con Ryanair, andate e ritorno, costa proprio quasi niente. Vabbè, che c'entra questo? No, come dire, c'ha i suoi vantaggi tutte queste cose qua, no? Ah, tu dici che c'è una caduta dei prezzi, quindi c'è da cavalcare la crisi. Tu dici viva queste notizie, perché così 2 euro si va a Bruxelles. 10 giorni fa gli alberghi, 10 euro andate e ritorno, gli alberghi che hanno ribassato i prezzi del 30-40%, insomma è il momento migliore per viaggiare. Ma poi secondo me non è che i milioni di pellegrini si fermano, assolutamente non gli italiani stanno vendendo le loro case a Parigi. Addirittura, prezzi stracciati, esatto. 50.000 euro vi comprate un 300 metri quadri nel centro di Parigi, evviva. Sono cose che succedono in questi momenti. Comunque devo salutare anche Marco da San Pellegrino Terme, devo salutare da Bangkok un ascoltatore, ci saluta. Poi mi hai detto il prefetto tromba o tronca? No, tronca, tromba era un altro vicino, era l'apertura, era rimasto sulla notizia. Passa, tromba che ti passa, tromba che ti passa. Questo potrebbe essere il titolo delle intercettazioni. Tromba che ti passa, di Francesca Sciauchi a Monsignor Balda. Però devo andare al traffico, poi rientro con Angelo Maria Perrino, con Vincino, perché Vincino ieri mi ha dato un tweet che mi ha inquietato un po', dicendo che oggi era ospite qui per insultare un po' chi se lo merita. E allora vorrò capire adesso chi se lo merita, tra un attimo. Massima di Confucio: ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Signor Renzi, con i 500 euro si compra una buona parte dei diciottenni, i nuovi votatori, i nuovi elettori, e così va avanti, capito? Tra il prossimo giro magari darà 500 euro ai pensionati e così prende i voti. Questo non è un voto di scambio, no! Milan azzappa da 7 kg dell'informazione. Quando Renzi dice che da 500 euro ai diciottenni da investire in cultura, e poi a me che sono la mamma del diciottenne me ne chiede 1.500 di mensa, 2.000 di tasse universitarie, io devo rinunciare a mandarla all'università perché l'ISE non ci copre più. Questo non è un disinvestimento in cultura? Ah, sento che parlate dei 500 euro. Quella è una puttanata grande come una casa. Finché il nostro fiorentino fa lo gnorri e pensa solo a attaccare i terroristi, noi in Italia possiamo stare tranquilli. Allora, questa storia dei 500 euro evidentemente ha riscosso grande successo, sentite Perrino e Vincino, la facciamo risentire. Renzi dice investire in cultura e in sicurezza, 1 euro di qui e 1 euro di là. Noi non cambieremo mai il nostro modo di vivere, noi non rinunceremo mai ai nostri valori, noi non ci rassegneremo al terrore. Il pensiero dell'Italia, che risuoni forte in tutta Europa e nel mondo, è questo: per ogni euro in più investito sulla sicurezza, ci deve essere 1 euro in più investito in cultura. Capito, Vincino? Così. Stupendo, stupendo. 500 euro è una cosa. Infatti, i lettori, i nostri ascoltatori hanno capito subito che il tema era quello là, i 500 euro. Assolutamente, come con i 500 euro andranno tutti a teatro, no? Una cosa. È bello, la cultura. Assolutamente, non come dire, un errore di quelli colossali. Ma di chi? Perché sei invidioso? Sì. Perché non hai 18 anni, questa è la verità. Avessi tu 18 anni, ti farebbero comodo 500 euro per andare al cinema gratis. Avessi 18 anni sarebbero stupendi, veramente. Sì. Ogni settimana, però, ogni mese, no? non una tantum, no, un bel 500, tantum, mesi, quindi, 500 euro al mese, bello così, a mondello. Te ne era a mondello. Il sogno di tanti anni fa, guarda, con 500.000 lire al mese. Ah. Quanti cinema ci sono a Mondello? Ti piazzi lì? A Mondello ce ne sono, ce n'erano due prima. La vicino, insomma, una. E vabbè, adesso rilanciamo il cinema, perché erano le arene, quelle là che andavi col pullover perché poi faceva freddo, con il cielo stellato sopra, era meraviglioso. Vabbè, insomma, Perrino, cosa ti sembra per i nostri ascoltatori, almeno alcuni, ma oggi ne riparleremo anche alle 8:15, sembra un po' una mossa elettorale più che altro. C'era una canzone, se potessi avere 1.000 lire al mese, esatto, era tipica degli anni 50-60, potremmo aggiornare ai tempi nostri. No, io devo dire che abbiamo spesso criticato Renzi, anche qui in trasmissione, io personalmente avevo lanciato l'hashtag Renzi come una cicletta, nel senso che pedaliamo ma siamo sempre un po' fermi. Ciò premesso, devo apprezzare nel Presidente del Consiglio la capacità di stare sul pezzo, questo è veramente straordinario. Con questa vicenda lui si colloca in uno stato d'animo del Paese e dà una risposta che può essere discutibile quanto vogliamo, però lui c'è, Renzi c'è, ecco. Invece i commenti degli osservatori li trovo stucchevoli e sconcertanti. Vedo adesso sul Corriere di stamane Maurizio Ferrara che dice: il bonus per la cultura utile forse ma non equo. Occhiello, dare ai diciottenni 500 euro per teatro, cinema e libri è un incentivo positivo visto l'interesse reale dei giovani, però non tiene conto delle grandi disparità sociali e territoriali che vedono il sud e gli immigrati profondamente svantaggiati. Che possiamo dire a questo Ferrera? Come dicono i tuoi, quelle interruzioni che dici ma vaffa, non lo so, ma a me pare un po' una mossa elettorale, Ma prendiamoci sti soldi, ragazzi, ho capito, ai consumi culturali metteranno in circolo dei denari, ma sono contento per chi ha 18 anni, però non so, Vincino, ma te anche che per il sistema, Lino, sono denari che girano, non dicevamo denari che girano, che la soluzione dei problemi era far circolare dei soldi. A me sembra anche un po' una mossa, far capire subito ai 18 anni che un po' di assistenzialismo in questo stato c'è, così vi abituavo già da giovane. Una buona misura per rilanciare il consumo di libri, di cinema e di teatro. Oh, viva i libri, viva il cinema, viva il teatro. Vincino, tu dovresti essere contento, uomo di cultura, dovresti essere contento, uomo di cultura. No, a me mi piace la cosa, un euro in sicurezza, un euro in cultura, no? Sì. Che però mi sarebbe piaciuto così, ci dà questo internet veloce, meraviglioso, stupendo a tutti, no? Ecco, mettiamo delle cose che tutti possono usare per avanzare, per costruire un mondo migliore, così, no? Questi 500 euro mi sembra un po' la mancetta per la cultura, comprati 5 libri, dai, però sembra un po' così, come ha questo tono così, ha bisogno di essere, sono opinioni, dire. Però Vincino, con chi è che ce l'avevi quando volevi insultare chi se lo merita? Era una stupidaggine di queste elettorali, diciamo, anche noi siamo mezzucci, no? Poi c'ho sabato una mostra di disegni miei a Firenze al Teatro Puccini, insomma, ricorre a tutte le cose, ricorre a tutti i mezzi pur di dire le cose, lo ripetiamo, sabato a Firenze al Teatro Puccini c'è una mostra di Vincino, che sono quei mezzucci che uno ogni tanto piazza lì, ricorda, sabato a Firenze, sabato a Firenze, Teatro Puccini. Sabato a Firenze. Esattamente, così. Perché sono cose che uno dice così. Le cose miserabili, tutti quelli in televisione con il libretto in mano. No? Esatto. Fare una cosa, vergogno per loro. Vergogna. No? Ecco, comunque, se sabato siete a Firenze, al Teatro Puccini c'è una mostra. Una marchetta dei disegni di Vincino. È la vita, una marchetta. Va bene, io vi devo salutare. Vincino, non ti ho fatto dire niente nel momento 5 Stelle, così Sergio Nazzaro, che è il loro responsabile alla Camera, che ci ascolta sempre, è sereno. È contento, possiamo farlo stare sereno, tranquillo per una giornata? 500 euro pure a lui e via. No, no, non ha 18 anni, non credo che abbia 18 anni. Vabbè, noi glielo diamo, cerchiamo di trovare il modo di darglielo anche. Facciamo questo inghippo, glielo diamo, va bene. 500 va bene. Euro possono essere spesi per andare a Firenze a vedere la mostra, esatto, di Vincino. Esatto, ricordo, sabato al Teatro Puccini a Firenze, Vincino. Ma così sono cose che si dicono, va bene. Vi ringrazio Vincino e Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it, alla prossima. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo alle 7:18 minuti, cari ascoltatori. La mia voce è questa, il raffreddore incombe. Ma comunque, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi via WhatsApp. Diteci da dove ci ascoltate, così vi saluto città per città, siete contenti e bene così. Allora, oggi torneremo sulla questione dei 500 euro per i diciottenni, che tanto fa discutere. Mossa elettorale, accusa l'opposizione a Renzi. Renzi invece dice non si combatte l'ISIS solo militarmente ma anche con la cultura, ed ecco dunque i 500 euro per i diciottenni, coloro che compiranno 18 anni l'anno prossimo. Però diciottenni di quest'anno, abbassate le penne, l'anno prossimo ne avrete 19 e non avrete i 500 euro. Va bene, ne parleremo più tardi anche con Oscar Giannino, e allora adesso andiamo a leggere i giornali. Questo giovedì 26 novembre i titoli, l'attualità internazionale sul Sole 24 Ore: Russia-Turchia a rischio scambi per 44 miliardi, questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Corriere della Sera: Merkel decide, soldati tedeschi inviati in Mali, e dice la cancelliera tedesca, l'ISIS non si combatte solo a parole. Repubblica, Hollande Merkel, asse contro l'ISIS, caccia a 10 jihadisti in Europa. Libero invece questo titolo di prima pagina: l'Italia finanzia l'ISIS coi soldi dei bambini. È un'inchiesta, riguarda una onlus italiana che però non è nominata nell'articolo, vedremo più avanti di che si tratta. E poi ancora missili e sanzioni contro Ankara, questo è il titolo della Stampa in prima pagina. Mentre il Messaggero: mossa Merkel, truppe anti-ISIS. Il Giornale invece torna sul salvataggio delle banche, lo pagano i clienti, questo è il titolo di prima pagina. Mentre il viaggio del Papa è per Avvenire, il terrore si nutre di povertà e paura, mentre io non ho paura è l'unità, questo è il titolo di prima pagina. Vedremo tra poco altre aperture, intanto le novità sulla vicenda di cronaca, che per carità a me appassiona sempre meno quando ci si schiera in tifoseria a dire ha fatto bene, non ha fatto bene, ha fatto benino, ha fatto maluccio, ha fatto in maniera sacrosanta. La vicenda dell'orefice che ha ucciso Valentin Froccai, 37 anni, albanese, ergastolano, evaso due volte dal carcere, una delle due evasioni come nei film, calandosi con le lenzuola dal carcere di Palermo. Però ci sono tante notizie, tante pagine dedicate a questa notizia. Il ladro ucciso in casa, condannato all'ergastolo, era evaso due volte, pagina 22 del Corriere della Sera. E poi a pagina 23 Andrea Galli e Cesare Giuzzi intervistano il gioielliere che ha sparato, conflitto a fuoco, uccidendo a Rodano questo rapinatore. Si chiama Rodolfo Corazzo, era ospite anche alla Zanzara. Non dico che mi sento un eroe, anzi mi sento un pirla. Non volevo, ma eravamo arrivati a un punto. Avevo 4.000 euro in tasca, l'incasso di giornata glieli ho dati. Ho aperto cassaforte, cavò, han preso anelli, gioielli di mia moglie, hanno trovato le pistole che colleziono, han preso anche quelle, non bastava. Minacciavano mia figlia di 11 anni, dicevano che le avrebbero tagliato le dita e poi ci avrebbero aperto tutti quanti. E lei ha sparato? Beh sì, alla fine ho sparato, ma prima, all'inizio loro erano calmi e io ribadisco non volevo ucciderlo. ma col lavoro che faccio giro armato con la mia Glock. La sparatoria è iniziata perché insistevano nel pretendere altro denaro che, ribadisco, non c'era. Ci hanno spinti in soggiorno con l'invito a parlare tra noi, a deciderci, a confessare l'inesistente nascondiglio dei soldi. Quando hanno chiuso la porta, ho estratto la pistola, ho nascosto moglie e bimba dietro al divano e poi è iniziata la sparatoria. E va bene, racconta questo, ci sono i commenti. C'è anche Paolo Berizzi che intervista Francesco Siciniano, che a Vaprio d'Adda ha ucciso un ladro che era entrato o stava entrando nella sua villa, poi si vedrà nell'inchiesta. Ha fatto benissimo a sparare, dice Siciniano, è un suo diritto come lo era per me. Intervistato da Paolo Berizzi a pagina 15 di Repubblica. Dice: non conosco la dinamica, ma penso che il signor Corazzo, come me, abbia il sacrosanto diritto di difendere se stesso, la sua famiglia, la sua proprietà dai rapinatori. Insomma, ha fatto bene a sparare. E va bene, speriamo che anche questa vicenda possa essere chiusa, almeno per quel che riguarda le polemiche sui giornali. Invece a Roma, con l'arrivo del Giubileo, il prefetto Tronca ha preso alcune decisioni, una delle quali è questa: stop ai centurioni, basta quelle persone vestite da centurione sui fori imperiali a Roma a fare fotografie con i turisti, spesso sono aggressivi, e quindi niente più Marco e Antonio al Colosseo con scudi di plastica, creste sull'elmo, pronti per le foto con giapponesi e americani in cambio di anche di 10 o 20 euro. Secondo il prefetto Tronca agiscono frequentemente con modalità inopportune, insistenti e talvolta aggressive, e dunque la decisione di mandare via i centurioni, allontanarli dal Colosseo. Anche Il Giorno titola su questo, Il Messaggero, Repubblica: via i centurioni dal Colosseo, raffica di divieti per il Giubileo. Anche i risciò dovranno sparire in vista del Giubileo. Insomma, cambiano un po' di cose. Certo, a proposito di Giubileo, oggi Il Messaggero mette una notizia che farà certamente felici, renderà certamente felici tutti gli esodati che ci stanno ascoltando. Anche i fondi degli esodati per finanziare il Giubileo. Questo è il titolo dell'articolo di Andrea Bassi a pagina 9. Oltre 123 milioni dalle risorse destinate a chi ha perso il lavoro e non ha la pensione sono dirottate al Giubileo. Sembra quasi ci sia un cortocircuito: da un lato gli esodati, i lavoratori rimasti senza lavoro e senza pensione dopo la riforma Fornero, dall'altro il governo che continua a stanziare miliardi per risolvere il problema, ma alla fine i soldi avanzano sempre. L'ultima sorpresa emerge dalle bozze del decreto che da oltre 1 miliardo di euro che Palazzo Chigi licenzierà nei prossimi giorni per i fondi per il Giubileo. Nel provvedimento ci sono due voci che drenano 523 milioni dal fondo degli esodati per destinare 400 milioni al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, 123 milioni proprio alle opere per l'evento. Dunque, dalla cassa per gli esodati vengono tolti 523 milioni, 400 serviranno alla cassa integrazione, rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, mentre di questi milioni 123, dunque, tolti dal fondo esodati, vanno al Giubileo. Siete contenti, cari esodati? Pagina 9 del Messaggero. Ma eccoci qui, me la sono tenuta da parte, l'apertura del giorno. Siamo arrivati al cuore della vicenda. Sapete che c'è il processo Vatilix, due giornalisti, Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi, sono sotto processo per i libri che ha scritto sul Vaticano. Così sotto processo sono anche un segretario di un monsignore e i due protagonisti dell'apertura del giorno, Monsignor Balda e Francesca Sciauchi, PR. Monsignore a luci rosse. Questo è il titolo di prima pagina del Giorno. E a pagina 14 e 15 l'elenco dei messaggi hot tra Francesca Sciauchi e Monsignor Balda, non tanto per un rapporto tra di loro, almeno questo non si evince dai messaggi che Nina Fabrizio pubblica sul Giorno, quanto per messaggi di questo genere che Francesca Sciauchi spediva a Monsignor Balda. È tutto nell'inchiesta, nel faldone. Francesca Sciauchi: mia mamma ti porta da mia cugina Silvana, perfetto. scritta. 36 anni, poi mi dici che ne pensi. È morbida. E Monsignor Balda che risponde E poi Francesca Sciauchi che insiste: martedì sera viene a casa tua a trombare Silvana, o vuole trombare, che facciamo? E Monsignore risponde: io no. E Sciauchi torna alla carica: ma sei perfetto, Silvana è morbidissima, perché non va bene? E Monsignore alla fine lassa perdere: è brutta, la replica di Monsignor Balda. E ancora, ma la Sciauchi che insiste: ha detto lo psichiatra che devo farti divertire lunedì, Negroni fino alla morte, cioè il cocktail, e quindi feste e via. Poi però il rapporto degenera se continui a fare di testa tua con noi. Hai chiuso, scrive la Sciauchi sempre a Monsignor Balda, poi si passa agli insulti e alla fine il classico finale. Oh, non sei depresso solo tu, sei depresso? Scopa che ti passa la tensione. Così, scopa che ti passa, potrebbe essere il titolo di questa intercettazione, i messaggi hot del Monsignore tra Francesca Sciauchi e Monsignor Balda. Va bene, se siete invece stanchi e depressi, sappiate che, udite udite, l'INPS ha certificato con un'inchiesta e un'indagine che il lunedì, ma guarda caso, il lunedì è il giorno nel quale si concentra il maggior numero di malattie, certificati di malattia, sia nel pubblico che nel privato. Studio dell'INPS rivela che al primo giorno della settimana fioccano le assenze per malattia. Così si guadagna un giorno di vacanza, ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Immagino che il secondo giorno più gettonato sia il venerdì per qualcuno. Comunque, il lunedì, come racconta Gian Maria De Francesco, sul giornale l'INPS stana i furbetti del lunedì. Vabbè, siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata. È l'articolo a pagina 20 di Libero, l'articolo che ci fa tenere, vi fa tenere le mani sul volante. Claudia Osmetti racconta di un'inchiesta che riguarda un prefetto sotto il sole di Dubai coi permessi facili per i cinesi. L'accusa è di corruzione nei confronti del prefetto attualmente di Frosinone, Emilia Zarrilli. L'accusa è questa: avere ottenuto una vacanza regalo da 8.000 euro con le amiche negli Emirati Arabi Uniti in cambio di una facilitazione del permesso di soggiorno a due cittadini cinesi. Accusata di corruzione, avrebbe agevolato il ricongiungimento familiare tra due cittadini cinesi e appunto in cambio avrebbe ottenuto questa vacanza da favola da 8.063 euro. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. State ascoltando un programma offerto da Più libri, più liberi, dal 4 all'8 dicembre al Palazzo dei Congressi dell'Euro, Roma. Alessandro Milan, il polenta e baccalà dell'informazione. Oh, evviva, allora devo fare una serie di saluti. Lucio da Treviso, ci salutano anche da San Mauro Torinese, Orlando da Ronciglione che ci scrive: alla faccia dei vegani, sto aprendo la mia macelleria, in bocca al lupo per la macelleria. Graziano da Poggio Renatico, Ferrara, Cristian da Savona, il nostro ascoltatore spesso il solito fedele dalla Pontina, un abbraccio anche a te. E da Clusone, Bergamo, dove Stefano ci dice che fa un freddo cane. Va bene. Allora, continuiamo la lettura dei giornali. L'attualità internazionale, ovviamente, dopo l'abbattimento del jet russo sui cieli della Siria o della Turchia, vedete un po' com'è la versione, sta creando ovviamente grandi tensioni. Per carità, non è la guerra mondiale, ma le tensioni che il Sole 24 Ore con Antonella Scott focalizza anche con un numero a pagina 3, beh, sono tensioni molto molto economiche, molto importanti. Il numero è questo: una guerra economica da 44 miliardi. Russia e Turchia cercano di evitare l'escalation militare, ma le ritorsioni sono già iniziate. Antonella Scott racconta che i russi non lasceranno correre. Riconsidereremo seriamente le relazioni, dice il ministro degli esteri Lavrov, e l'impatto si farà sentire. Ieri qualcuno calcolava appunto in 44 miliardi di dollari il colpo, cioè la pugnalata turca alla schiena citata martedì da Putin, potrebbe fare tremare l'economia turca per questa cifra. Quei 44 miliardi sono un modo per quantificare la posta in gioco nel confronto tra Russia e Turchia. La Russia è il secondo partner commerciale di Ankara, un interscambio pari a 31 miliardi di dollari nel 2014, 18,1 miliardi per i primi 9 mesi del 2015. Dunque, ecco che si sale a 44 miliardi che sono a rischio ritorsione. Intanto, dal punto di vista militare, Francesco Battistini racconta da Gerusalemme a pagina 5 del Corriere della Sera come si sia salvato uno dei due piloti abbattuti, proprio come nel film Beyond, di Behind Enemy Lines, quello con Gene Hackman, no? Che racconta di due americani che cadono, in quel caso durante la guerra in Jugoslavia, cadono proprio oltre le linee nemiche, e proprio così finisce, è finita, questo però non è un film ma la realtà, la sorte di due piloti russi, un ucciso, l'altro che riesce a fuggire nascondendosi nei boschi e poi viene salvato, viene prelevato, ovviamente i particolari non vengono diffusi come dai russi, e ora è già in una base russa di stanza in Siria. Konstantin Murakhtin si chiama questo pilota, che dice: volavamo a 6.000 metri col cielo limpido, il missile è arrivato all'improvviso, pochi secondi dopo e già precipitavamo, ci siamo buttati fuori, non è vero ed è escluso che siamo sconfinati in Turchia e non abbiamo avuto alcun tipo di contatto, non sono arrivati avvertimenti né visivi né via radio dai turchi. Vabbè, questa ovviamente è la versione di parte. Invece leggere questo titolo, sempre sul Corriere ma su tutti i giornali, davvero inquieta. Sentite qui: Bruxelles, ancora emergenza, è caccia a 10 kamikaze. 10 kamikaze. Il ministro degli esteri lancia questo allarme, sono pronti a farsi esplodere, ministro degli esteri belga, e poi dopo il governo chiede ai media di abbassare la notizia, cioè di non dare così tanto rilievo. Ma come? Prima dite ci sono 10 kamikaze pronti a farsi esplodere in Belgio, e poi chiedete mezzi di informazione, vabbè, ma adesso non date troppo risalto a questa notizia. E non datela allora, se proprio non volete seminare il panico, come evidentemente invece è successo in Belgio. In tutto questo c'è la mossa di Angela Merkel, come fanno notare i giornali, cioè Angela Merkel che dice l'ISIS non si combatte solo a parole, raccontano tutti i quotidiani, ha deciso di mandare soldati in Mali e dunque in Africa assieme ai francesi, soprattutto dopo l'attentato che c'è stato, l'assedio in un hotel di Bamako, la capitale del Mali. Ecco dunque l'impegno tedesco, più truppe in Mali assieme ai francesi, è il titolo del Corriere della Sera. In Italia invece, tra le paure, i timori, le inquietudini, beh, vi segnalo l'articolo di pagina 3 di Libero, è l'apertura di Libero, è una vicenda molto molto strana. L'Italia finanzia l'ISIS coi soldi dei bambini, questo è il titolo di prima pagina. Franco Becchis racconta: l'ISIS è stata finanziata anche dall'Italia nel modo più insospettabile, attraverso le adozioni a distanza di bambini siriani organizzati da una ONLUS che aveva aperto un conto in uno dei più importanti istituti di credito nazionale. Lo rivela un documento della Financial Action Task Force inserito nelle cartelline dei partecipanti al recente G20. Su un conto di un'importante banca del nord Italia aperto da una ONLUS per attività di carità, tra cui l'adozione a distanza in Siria, sono affluiti versamenti cash e bonifici bancari, la maggior parte per piccoli importi inviati da migliaia di persone fisiche, solo che questi soldi, una volta accreditati, sono stati inviati in Turchia, dove avrebbero dovuto essere ritirati e impiegati per il loro utilizzo. Invece sono stati versati, secondo indagini successive, a un uomo che poi ha avuto la disponibilità di tutti quei fondi, è un membro di un gruppo radicale costituito nel nord Italia per reclutare combattenti radicali. E questo si legge, peccato che Libero non dica il nome della ONLUS, in tutto l'articolo si parla di una ONLUS, non si dice il nome, evidentemente le indagini sono ancora in corso. Però certo è abbastanza inquietante il significato di tutto ciò. Al Califfo i soldi degli aiuti ai bambini. Onlus Italiana raccoglieva donazioni per le adozioni a distanza, i fondi finivano invece all'ISIS. Questo è ciò che si legge. Mentre c'è tutto questo timore, chi vuole tranquillizzare ha fatto questa battuta è sulle zanzare, è il Papa, che dice dall'Africa, dove è in viaggio, timore di attentati, temo di più le zanzare. Il Papa dice, a parte le battute, anche qualcosa di più importante sulla lotta al terrorismo. La violenza nasce dalla povertà. L'esperienza dimostra che la violenza, il conflitto, il terrorismo si alimentano con la paura, la sfiducia, la disperazione che nascono dalla povertà e dalla frustrazione. Questo è ciò che ha detto Papa Francesco in questo viaggio che lo porterà anche nella Repubblica Centrafricana, a Bangui, dove vorrà aprire in qualche modo la porta del Giubileo. Al ritorno vi spiegherò perché ho scelto proprio il Centrafrica, dice Papa Bergoglio, che scherza anche con il pilota, il comandante dell'aereo, che gli prometteva di fare di tutto pur di atterrare a Bangui, dove la sicurezza ovviamente è al massimo livello, ma si teme davvero tanto, e il Papa ha risposto: io voglio andare a Bangui, se non ci riuscite ad atterrare datemi un paracadute e mi paracaduto lì. Certo, però Massimo Franco racconta a pagina 3 come il rischio sia concreto. Addirittura anche qui ci si può interrogare sul ruolo dei mezzi di informazione. Massimo Franco, nell'articolo di pagina 3 del Corriere della Sera, dice che a un certo punto scrive questo: i servizi di sicurezza italiani cominciano ad ammettere che la prospettiva di un attentato nel nostro paese purtroppo è un problema solo di quando, dove e come, e non di se ci sarà. Ecco, non lo so, sul ruolo dei mezzi di informazione ci si può interrogare. Con questo messaggio molto molto rassicurante di pagina 3 del Corriere della Sera, io do il buongiorno, il benvenuto e un augurio di una buona giornata a Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Eccoci Mauro, tutto a posto? Buongiorno. Preferivo, devo dire, quando mi facevi precedere da questione di malversazione. Esci di casa con fare circospetto e guardati intorno. No, guarda, lascia stare. Noi oggi con il Sole 24 Ore iniziamo questa collana che si chiama Lezioni di Futuro. Giusto. Allora, vorrei, per contrastare invece il tuo viatico, che non è proprio di quelli migliori, invece parlarti delle Lezioni di Futuro. Cosa sono? Sono dei volumi che diamo da oggi, ogni giovedì li daremo insieme al Sole 24 Ore, per spiegare le innovazioni tecnologiche come stanno influendo sulla nostra vita. Ad esempio, oggi parliamo in questa prima uscita dei robot, perché i robot sono oramai sempre più utilizzati in tutti i campi della nostra vita. Siamo così abituati ad avere degli automi che ci aiutano dalla produzione fino alla vita quotidiana che forse non ci facciamo neanche più caso. Allora, grazie alla redazione di Nova, che si è occupata appunto di predisporre questi volumi, noi oggi cominciamo a raccontarli. Non so, lo sai che la prima azienda europea per numero di brevetti è italiana, tanto per dirti una cosa così. Una cosa positiva, ecco. Oppure che se tu puoi pagare con il codice a barre è grazie a un brevetto italiano, una produzione italiana. Ecco, queste sono cose che potresti imparare appunto con le lezioni di futuro. Guarda, il futuro non è il futuro, ad esempio, della tua squadra, se verrà o meno acquistata da un cliente estero, eccetera. Ci occupiamo di cose un pochino più fondamentali, diciamo, che più permeano la vita delle persone. Oh, ti vorrei anche dire che oggi su Sole 24 Ore, peraltro, continuiamo il manuale per il risparmio e gli investimenti in questi giorni che sono, appunto, come dicevi tu prima, non tranquilli. Oggi ti parliamo delle valute. Sei preparato sulle valute? Se non, io non credo, quindi leggi il manuale risparmiatore. Ieri c'è stato un calo nella quotazione dell'euro nei confronti del dollaro e ti spieghiamo perché nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Poi oggi c'è anche Casa 24 perché è giovedì, è giusto che è giovedì. Oggi è giovedì, assolutamente. Benissimo, allora c'è anche Casa 24 e ti parliamo, tra le altre cose, di come sta andando il mercato delle compravendite immobiliari. Ci sono qua e là segnali di ripresa, mentre ohimè segna una piccola flessione il dato di fatturato e ordinativi per l'industria. Di questo ti riferiamo puntualmente su imprese e territori. Oh, tu hai case in affitto? No, no. Tu sostieni, hai questo pauperismo oramai che ti contraddistingue, vabbè. Comunque sappi che a fine mese c'è anche la scadenza per la cedolare affitti, e allora te ne parliamo nelle pagine di Norme e Tributi che tu leggerai religiosamente. Può andare bene religiosamente mentre leggerai attentamente e direi assolutamente le lezioni di futuro che oggi sono con il Sole 24 anche ore. Doviziosamente, caro Mauro, devo dire che attenzione, c'è un allarme di un ascoltatore che dice Mauro Meazza sta parlando ancora a un'ascoltatrice, non sono arrivata alla metro, sono in ritardo, oppure Cristiano, mia figlia di 6 anni non va a scuola se non grida traffico con Meazza, quindi oggi dovresti gridarlo con la figlia di 6 anni, facciamo magari un countdown 3, 2, 1. Allora ti voglio dire, tra l'altro da Sole 24 ore delle lezioni futuro ho appreso che pure l'auto che non si guida, che senza guidatore, è stata una innovazione partita in Italia, tanto per dirti un'altra cosa. Ecco. Perché ti dico questa cosa che riguarda le automobili? Facciamolo bene, facciamo il countdown 3, 2, 1 e poi parti insieme alla figlia di Cristiano. Va benissimo, fai tu il conto? Sì, faccio io allora. 3, 2, 1... Traffico! Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta... Alessandro Milan, la polenta e rosei dell'informazione. È giusto, polenta e baccalà e polenta e rosei. Oggi abbiamo fatto un plan. Allora, sul Giorno, in prima pagina, c'è un'intervista del presidente di Confindustria Squinzi che dice la ripresa è in stallo. L'intervista pagina 2-3 del direttore Andrea Cangini. Dice Squinzi, le incertezze sono ancora molte. Fino ad oggi abbiamo beneficiato delle decisioni della BCE sul quantitative easing, del basso prezzo del petrolio, del rapporto vantaggioso dollaro-euro, ma siamo ancora lontani da quel tasso di crescita del 2% minimo di cui abbiamo bisogno. E gli ultimi dati lasciano perplessità, cioè quelli sulle esportazioni, ad esempio, ma non solo. Domani, cioè oggi, in realtà presenteremo alcune analisi del nostro centro studi. I dati sul fatturato dicono che rispetto al secondo trimestre registriamo una flessione dello 0,6% e gli ordinativi sono calati addirittura del 4,2%. Secondo Squinzi le priorità sono eliminare quella manina antimprese che quotidianamente ci tira verso il basso, semplificare il sistema Italia a partire dalla pubblica amministrazione. Riguardo invece all'attualità internazionale, Squinzi propone dobbiamo revocare le sanzioni a Putin, se vogliamo affrontare il problema ISIS dobbiamo essere compatti, non possiamo prescindere da Putin, le sanzioni vanno revocate, a beneficiarne per qualche miliardo di euro sarebbero anche le nostre esportazioni. L'intervista la trovate a pagina 2-3 del Giorno al presidente di Confindustria. Mentre c'è la polemica che continua, e ne parleremo dalle 8:15, se volete anche con le vostre telefonate, tra 10 minuti i centralini saranno aperti all'800240024, del bonus 500 euro per la cultura per i diciottenni, o meglio quelli che compiranno 18 anni nel 2016. Allora, per l'opposizione una chiara mossa elettorale, non solo per l'opposizione ma anche per il leader della FIOM Landini. È interessante ciò che Francesca Schianchi scrive a pagina 11 della Stampa, e cioè i sondaggi su come votano i diciottenni, se votano, perché per la maggior parte non votano, oltre il 55% non vota secondo il direttore di IPR Marketing Antonio Noto. Ma scrive La Stampa, la prima forza politica per quelli di quell'età è il Movimento 5 Stelle, che noi stimiamo al 28%, dice sempre Noto, mentre al 37%, il 28% è la stima generale del Movimento 5 Stelle, ma in quella fascia di età, cioè 18-24 anni, prende il 37% dei voti. Ecco che dunque, secondo alcuni, è questa mossa, è una mossa elettorale di Renzi, cioè andare a pescare nel bacino di coloro che hanno tra i 18 e i 24 anni e che, secondo i sondaggi, sono più vicini al Movimento 5 Stelle rispetto al Partito Democratico. Infatti il titolo è questo: i diciottenni apolitici o votano Movimento 5 Stelle, un elettorato difficile da sedurre. Secondo i sondaggisti, dunque, la card cultura nasce da qui, ma non porterà molti voti a Renzi. Il graffio di Iena a pagina 3 della Stampa è sempre di un certo livello. Salve, mi chiamo Giovanni, l'anno prossimo compirò 18 anni e voterò Renzi. Vabbè, lasciamo questa vicenda che riprenderemo alle 8:15. Notizie di giornali, visto che siamo in rassegna stampa. In Rai sta per arrivare un direttore per le nuove news. È l'asso nella manica del direttore generale Campo Dall'Orto, questo secondo Repubblica, pagina 17. Si chiama Carlo Verdelli. È Carlo Verdelli, già direttore di Vanity Fair, già direttore della Gazzetta dello Sport, già vice direttore del Corriere della Sera, oggi a Repubblica, e che andrà alla Rai come direttore per le nuove news, questo racconta Repubblica. Anche se la novità forse più importante che riguarda il mondo dei giornali e dei mass media è proprio Repubblica, perché dopo 20 anni è ufficiale, lascia Ezio Mauro, il direttore lascerà il 14 gennaio dal punto di vista formale, ma è tutto già deciso, lascia Ezio Mauro e arriverà a Repubblica Mario Calabresi, attualmente direttore della Stampa. Tra l'altro fa notare alcuni giornali che Adriano Sofri, sapete la vicenda storica, insomma Adriano Sofri condannato per l'omicidio del padre di Mario Calabresi, ha già scritto che sul Foglio, senza citare la vicenda Calabresi, ma comunque ha già fatto sapere che, essendo lui legato nel suo rapporto di collaborazione con Repubblica Ezio Mauro, finirà il rapporto di collaborazione con l'uscita di scena di Ezio Mauro. Lo faccio vedere anche in diretta su Periscope, siamo in diretta in questo momento. Che dire, ci sono ancora notizie sulle elezioni comunali, ma cose che interessano poco. Le elezioni comunali e amministrative sono lontane. Allora chiudo con la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Anche oggi vince Fabrizio Corona. La notizia è sempre quella, il giorno gli dedica mezza pagina Fabrizio Corona, che fa lezioni di marketing. Anzi, c'è boom al corso di marketing. 100 euro l'ora, corso di 3 ore in cattedra Fabrizio Corona, 300 euro per 3 ore per seguire il corso di marketing e comunicazione da Fabrizio Corona. Ma chi se ne frega?